11:40 di nuovo in diretta. Allora, ci accingiamo a effettuare un nuovo collegamento perché dobbiamo lanciare un appuntamento assembleare previsto per questo pomeriggio. Mentre diciamo dal punto di vista politico Monti cerca di muoversi sul piano internazionale e addirittura minaccia Unione Europea, soprattutto insomma locomotiva tedesca, di cambiare politica perché altrimenti in Italia vi saranno delle proteste. Siamo arrivati a questo paradosso in questo paese. Nel frattempo c'è chi prova a costituirsi in un percorso di auto-organizzazione all'interno anche della nostra città, da veicolare nei quartieri, soprattutto quelli a composizione popolare, per agire e praticare una serie di nodi sicuramente importanti che hanno a che fare con i servizi da destinare alla collettività, che sono chiaramente sottoposti a tagli paurosi proprio per effetto della manovra economica e della crisi che colpisce il nostro paese. Dunque, questo pomeriggio all'università c'è una ulteriore tappa di un percorso che si è avviato subito dopo l'ottobre romano. Noi siamo in collegamento telefonico con Prisca. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti e a tutte. Dunque, si è provato, insomma, prima della chiusura dell'anno di riannodare i fili di un possibile intervento di carattere politico-sociale, soprattutto sul tema della mobilità. Oggi è previsto un nuovo appuntamento assembleare, credo, proprio per discutere operativamente di come iniziare questo percorso, no? Sì, ti sento male, Luciano. Bisogna accontentarsi di queste prestazioni audio, purtroppo. Ok. No, riassumici un po', diciamo, i punti qualificanti dell'assemblea di oggi. Stavamo appunto riepilogando e incasellandola in un percorso che è iniziato qualche mese fa. Il tentativo appunto è quello di rendere operative una serie di discussioni che sono state fatte negli ultimi mesi, soprattutto sul fronte della mobilità, una vertenza che chiaramente può proporsi di ricomporre lavoratori, lavoratrici, utenza, e non a caso insomma ha come suo epicentro proprio l'università, perché insomma il problema della mobilità riguarda anche gli studenti, no? Certo, allora noi ci siamo visti già all'università il 14 dicembre scorso, abbiamo iniziato appunto questo percorso sull'auto-organizzazione, sull'autoriduzione, sulle riappropriazioni dei redditi, ma anche delle nostre vite, perché poi ovviamente il discorso è più ampio di quello che riguarda appunto la mobilità, però abbiamo deciso oggi di concentrarci in particolare sulla questione dell'ATAC di fronte all'aumento che è stato ormai annunciato ufficiale del biglietto a 1,50 a partire da giugno. Abbiamo intenzione di lanciare una campagna, non solo noi studenti auto-organizzati, ma insieme ad altre realtà della città, una campagna che punta al non pagamento del biglietto dei mezzi di trasporto pubblico, ma che va ovviamente al di là poi del discorso del biglietto, perché è evidente a tutti quali sono i problemi di mobilità di questa città, che riguarda soprattutto le periferie e i pendolari che vivono fuori Roma. Quindi il nostro discorso parte appunto dall'aumento del biglietto, ma vuole andare oltre. Abbiamo in mente oggi di lanciare delle proposte come organizzazione di conferenze magari sulla mobilità, sulla città, sul centro, la periferia.